Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di narratori italiani e cominciamo con una delle voci più interessanti, Rosa Matteucci. Vi presento oggi quella che forse è la sua prova più ambiziosa. Il libro si intitola Tutta mio padre, pubblicato da Bompiani, 290 pagine, 17,50 euro. Questa è una storia struggente ma anche ironica e dissacrante sul rapporto col padre e sulla storia di una famiglia piuttosto sfortunata o addirittura infelice. Per certi versi. Era una famiglia aristocratica, ricchissima, che nel giro di due generazioni perde tutto, ma perde veramente tutto, fino a ridursi letteralmente sul lastrico, anzi in certi momenti alla fame, mantenendo naturalmente in questo disastro una certa classe, una certa eleganza e anche certe abitudini e certi tratti della passata grandezza. Per esempio la madre si rifiuta ostinatamente di far da mangiare perché non saprebbe neanche da dove cominciare. Protagonista del libro è il padre, incapace lui stesso di fare alcunché, dedito a inseguire la fortuna con giochi e lotterie, alla ricerca addirittura della pietra filosofale che lo spinge a improbabili incursioni nel campo della chimica che si concludono poi in autentici disastri. Un padre inetto, insomma, artefice dell'assoluta miseria alla quale costringe moglie e due figlie, ma legatissimo soprattutto alla figlia narrante, che lo ricambia con un'appassionata dichiarazione di amore che chiude il libro. Un amore, scrive la Matteucci, che stanotte è dilagato in me come olio novello che lentamente si spanda dalla mola di pietra, tracimi dal frantoio, corra sulla strada maestra o si disperda nei campi. Dentro il mio cuore non c'è più un millimetro di spazio libero. Naturalmente l'avventurosa e malinconica saga della famiglia si arricchisce di tanti episodi più o meno curiosi, nei quali la scrittura di Rosa Matteucci ha modo di esprimersi con spietato realismo, ma come dicevo anche con molto sarcasmo, forse più addirittura che con ironia. Per esempio vi propongo di queste pagine la scoperta dell'autentica miseria da parte della scrittrice ragazzina che si è da poco trasferita con la famiglia a Venezia. Mia madre era solita citare, a proposito della nostra condizione sociale di nobili decaduti, il conte Ugolino della Gherardesca relegato nella torre di Pisa, che, divorati a causa della fame i suoi figlioli, si forbiva con i capelli, le labbra grondanti il sangue della sua carne. La vicenda di Ugolino mi spaventava. Temevo che i miei genitori mi avrebbero mangiato. Una volta ho espresso il mio timore a mia madre, che mi rispose: «Soltanto Crono divora i suoi figli». Senza spiegarmi chi fosse questo Crono, che si era ridotto così a mal partito da doversi cibare della sua prole. Pensavo che se proprio avessero dovuto mangiare qualcuno, i miei genitori potevano sempre buttarsi su mia sorella Fran, che era più alta e più grossa di me, ma non hanno mangiato nemmeno lei. Nonostante le ambasce, quando il più semplice dei ragionamenti, anche quello formulato da un allocco, avrebbe portato alla risoluzione obbligata di imprendere un qualunque cacchio di lavoro per mantenere la famiglia, mio padre, col ciufolo che si mise in pista, preferiva concepire i business nella riserva della sua fantasia sfrenata. Preferiva vagabondare nei pressi del casinò municipale del Lido. Le sue attività lavorative si concentravano precipuamente sul gioco d'azzardo, lotto e lotterie in genere, corse dei cavalli. Secondariamente, praticava delle sedicenti quanto fantasiose intermediazioni immobiliari, ovvero concepiva una teoria di affari fantastici germinati nella sua mente come i morsi biancastri e filamentosi sui tuberi alla fine dell'inverno, che a scadenza fissa, nel delirio dei loro assunti, venivano declamati attorno al parvodesco veneziano come l'affare del secolo. Un altro padre completamente scombinato troviamo nel libro L'invenzione di Palermo. Questo è di un esordiente che si chiama Giuseppe Rizzo, a 26 anni. Il libro è pubblicato da Giulio Perrone, 204 pagine, 12 euro. Rizzo ci porta in uno dei peggiori ghetti della Palermo a cavallo fra gli anni 70 e 80. Qui, sul fiume Oreto, vive la famiglia Tirone, alla eterna e insoddisfatta ricerca di una casa popolare, il cui capofamiglia Totò è assolutamente incapace, anche lui, di combinare alcunché di produzione produttivo se non cercare di vendere degli astrusi apparecchi, come ad esempio gli orologi perditempo per chi corre troppo dietro appuntamenti stressanti, ovvero i fototelefoni, normalissimi ricevitori con cornici appiccicate sulla cornetta in cui il cliente poteva mettere la foto del caro estinto, o ancora bilance dimagranti per scimunite presuntuose che si accontentavano di aggeggi taroccati. La svolta nel libro avviene dopo l'omicidio, pare per errore, della madre e lo scontro che il padre avvia con un boss mafioso. E anche qui la voce narrante è la giovane protagonista, Nina, dall'eloquio tutt'altro che castigato, che dà voce ed espressione ad una Palermo segreta e nascosta. Memorabile la cronaca nel libro della visita del sindaco Leo Luca Orlando alle baracche bruciate del Loreto, una visita dominata dall'obiettivo esclusivo di fare bella figura con giornali e televisioni. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno a Giuseppe Rizzo. Buongiorno. Giuseppe Rizzo, questo è il suo primo romanzo. Come mai ha scelto una Palermo che in fondo lei non ha conosciuto, perché parliamo della Palermo di anni in cui lei non era ancora nato? Sì, la Palermo che io non ho conosciuto però è molto simile alla Palermo che io ho vissuto. Avendo fatto il cronista a Palermo per un paio d'anni, mi sono ritrovato nelle stesse condizioni con un'unica eccezione. Io racconto nel libro di una baraccopoli a pochi passi dal centro abitata da palermitani. Oggi quella baraccopoli è abitata da immigrati praticamente. Ecco, questo è un po' il segno dei tempi, però chi era misero allora erano i palermitani. Ce n'è ovviamente di miseria a Palermo tra i palermitani a bizzeffe. Oggi i tempi vogliono che lo siano gli immigrati. Quindi la Palermo non si è reinventata in questi 25 anni ultimi? Beh, forse si è consumata, ecco. Se c'è un processo che mi viene in mente ora per descrivere questi ultimi 20 anni di Palermo, è quello di una città che si consuma. In che senso? Nel senso che tutto quello che c'era sembra sempre più decaduto, la decadenza aggredisce sempre più monumenti e forse anche la società stessa. Però noi nel nord leggiamo, abbiamo letto negli ultimi anni, che c'è stato un recupero anche di monumenti, di zone centrali, dall'abbandono, dalla desolazione, non solo a Palermo per la verità, ma che insomma ci sia stata una certa rinascita urbanistica anche del centro storico. Se c'è una rinascita, a mio modo di vedere, è quella invece una rinascita più che riguarda il fattore culturale per quel che riguarda l'aggressione alla mafia. Allora sì che possiamo parlare di rinascita. Se invece vogliamo parlare di una rinascita urbanistica, ecco, quello io non l'ho visto. Senta, parliamo un attimo allora della mafia che lei cita, perché uno dei protagonisti del suo libro è proprio un boss periferico della mafia. Ecco, questo tessuto di piccola criminalità che lei descrive, di piccola ma potente criminalità che lei descrive, è un tessuto ancora vivo, forte nel vissuto di Palermo? Beh, le cronache lo testimoniano giorno per giorno. Senz'altro la grande mafia sta vivendo tempi bruttissimi. È la piccola criminalità che, quando non c'è il controllo a tappeto che c'era negli anni in cui descrivevo io, ovviamente tira fuori la testa e viene a galla. Però chiaramente l'azione che è stata fatta invece nella lotta contro la mafia dei Corleonesi e poi quella dei Lo Piccolo e così via, è stata un'azione determinante, senz'altro. Che reazione ha suscitato il suo libro nella sua città? Beh, io ancora devo veramente andare a presentarlo nella mia città. Ho ovviamente scritto una favola, per cui molti vedono una Palermo in qualche modo reinventata. Mi aspetto di tutto sostanzialmente. Bene, ci faccia sapere. Va benissimo. Grazie. Grazie Giuseppe Rizzo, buona domenica. A lei. Prima di presentarvi il terzo autore, rimango un attimo sulla Sicilia per presentarvi un rapido libro di storia, Tesoretto siciliano, compendio storico-culturale regionale, pubblicato da Solfanelli, l'autore è Ezio Biuso Rizzo, 208 pagine, 14 euro. Interessante perché succinto ma completo, e anche per non indulgere a un certo vittimismo che spesso si trova nei libri di siciliani. Questo invece sottolinea anche le occasioni mancate dell'isola. Per esempio, nel brigantaggio post-unitario, l'autore identifica un fenomeno sociale, leggo dal suo libro, complesso, in cui confluivano tutte le problematiche irrisolte dell'isola: l'assenza di una cultura della legalità, la tendenza alla corruzione, lo squilibrio sociale e una concezione ritardata dell'economia. E infine l'ultimo narratore, che ripropone il tema del quale stiamo parlando oggi, cioè il distacco dai genitori, in questo caso dalla madre. Il libro è Nonna Carla di Alain Elkann, è pubblicato da Bompiani, 136 pagine, 14 euro. Qui si narra la lunga malattia della madre dello scrittore, che sollecita Alain Elkann a rivivere in quei mesi di sofferenza il proprio rapporto con la mamma e la stessa vita dell'autore, molti episodi della quale assumono in quel momento, in quel periodo di distacco, una luce particolare e magari diversa, essendo letti con gli occhi di oggi. Sentiamo per esempio dal libro la descrizione di una svolta che ha segnato la vita di tanti coetanei di Alain Elkann. Poi ci fu il maggio del 68. Ormai non mi interessavo più a mia madre, alla famiglia, alla loro vita, alle loro case, alle loro vacanze. Non volevo più diventare un eroe, un uomo famoso, ma un uomo impegnato. Non ascoltavo più nessuno, non andavo più ai concerti, non volevo più essere un ragazzo per bene, un borghese. Volevo essere un artista, un avventuriero, un viaggiatore senza bagagli. A scuola non studiavo, pensavo ad altro. Pensavo alla mia futura vita, una vita libera, in altre città. Mi domandavo a cosa servisse studiare in quel modo pedante e ripetitivo, così lontano dai miei sogni. Volevo conoscere la vita al di là delle mura dell'appartamento in cui vivevo, lontano da quegli amici che si preparavano a un futuro simile a quello dei loro genitori. Con mia madre non ci parlavamo quasi più. Era diventata un'estranea che non sapeva niente della mia vita e interveniva solo per disperarsi o criticarmi. Avevamo un rapporto difficile. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Adesso vi propongo un bel blocco di cultura nazional popolare. Volare. Oh, oh. Cantare. Si è appena concluso il Festival di Sanremo e allora vi propongo una bella ricostruzione di questo appuntamento tradizionale della musica italiana, che è quella di Vox Populi, Voci di 60 anni della nostra vita, pubblicato da Excelsior 1881, 648 pagine, 21,50 euro. L'autore è Gigi Visigna, il direttore storico di TV Sorrisi e Canzoni, che ha partecipato a 50 edizioni del Festival e che qui esamina appunto edizione per edizione ogni anno della vita di questo appuntamento canoro. Flashback. La sera del 1 febbraio vede concludersi il festival con una spontanea standing ovation che il pubblico, e persino la clac che dovrebbe remare contro, tributa a Domenico Modugno, che stavolta, e non c'è termine più appropriato, trionfa allargando le braccia e urlando «Volare!». Vestito nel suo smoking azzurro cielo, che la stampa racconta bianco, forse perché le fotografie sono in bianco e nero. È l'apoteosi, perché quel ragazzo che tutti insistono a definire di origini siciliane, prima dell'inizio del festival non se lo filava nessuno, anche se in giuria qualcuno aveva fiutato il colpaccio, tanto che dopo le prime votazioni la sua canzone Nel blu dipinto di blu era stata bocciata. «Ancora oggi non ci credo», mi dirà Modugno qualche tempo dopo, «ma è andata proprio così». E so anche chi mi ha salvato. È stato Arrigo Polillo, un valente jazzista e critico musicale, e quando l'ho ringraziato mi ha detto che non aveva fatto niente. Poi però, dopo la vittoria, molti appartenenti alla giuria sono venuti da me alla spicciolata per dirmi che ero entrato grazie al loro voto. Saltare sul carro del vincitore, evidentemente, è da sempre uno sport nazionale. Sanremo, conclude l'autore, anzi lo scrive proprio all'inizio del suo libro, naturalmente non è più quella di 60 anni fa. Oggi, dopo due mesi, il cantante vincitore viene matematicamente dimenticato, scrive Visigna. La manifestazione si è trasformata da gara canora a trasmissione televisiva. Ora conta chi la presenta e che ospiti riesce a convocare. I cantanti concorrenti sono mere comparse. Abbiamo ricordato qualche giorno fa i 50 anni della scomparsa di una meteora nel panorama musicale italiano, che segnò però un'epoca, se lo ricorderanno quelli della mia generazione, Fred Buscaglione, che ritroviamo nel libro Il grande Fred di Maurizio Ternavasio, che è un giornalista. Il libro è pubblicato da Lindau, 158 pagine, 20 euro. Mai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Questo che avete ascoltato era un brano di uno dei motivi più famosi di questo cantante torinese, che seppe trasformarsi in un autentico personaggio, con la sigaretta sempre in mano, il whisky nell'altra, e che morì tragicamente in un incidente stradale il 3 febbraio del 1960 a Roma, a bordo di un'auto che contribuiva anch'essa alla creazione di quel personaggio, una Ford Thunderbird rosa Shocking. A rafforzare questa dimensione da personaggio che Buscaglione si era costruita, scrive l'autore, avevano contribuito anche l'abbigliamento, il gesticolare, la postura e la presenza scenica. L'interprete torinese, aggiunta, era un gutturale, un gridatore, un dicitore, un vero musicista, ma anche uno chansonnier che si atteggiava da svitato dallo sguardo buono, inutilmente indurito dagli atteggiamenti che fingeva di assumere. Buscaglione morì a 39 anni e il successo gli era arrivato all'improvviso, sull'onda anche del consolidarsi nella società di un nuovo strumento, il jukebox, che lo avrebbe lanciato al punto da costringere anche la radio, assai compassata a quell'epoca, a dare spazio alle nuove forme musicali e soprattutto addirittura al rock. Da lì nacque anche la sua affermazione in televisione, che gli diede il successo, ma di cui aveva profeticamente anticipato i rischi e le controindicazioni. Lo spiegò lui stesso nelle righe che adesso vi faccio ascoltare. Il cantante non era nel suo intimo del tutto convinto dell'efficacia della televisione. In un'intervista rilasciata nel dicembre del 1959 aveva dichiarato: «Occorre studiare chilometri e chilometri di battute, preparare canzoni nuove, sottoporsi a prove faticose e tutto per che cosa? Per mezz'ora di spettacolo che appena finito è già morto. C'è la pubblicità, è vero, c'è la popolarità, ma esiste anche il rischio di esaurirsi in pochi mesi. Dove vuoi che vada a proporre una canzone eseguita alla televisione? Dove vuoi che vada a ripetere uno sketch presentato sul video quando ormai tutti lo conoscono da un capo all'altro dell'Italia?» Facciamo una parentesi a questo punto. Il confettino. Rimaniamo in tema musicale con La ballata di Jordi, il testo della canzone di De André con i disegni di Giuliano Ferri, è pubblicato da Gallucci, 16,50 euro, e c'è anche il CD con l'interpretazione del grande cantante. Ma Sanremo non sono solo canzonette di evasione, come ricorda una figura drammatica della storia di questa manifestazione, cioè Luigi Tenco, che è al centro del libro di Marco Santoro, il quale è un sociologo di Bologna che ha scritto appunto Effetto Tenco, genealogia della canzone d'autore, pubblicato dal Mulino, 280 pagine, 18 euro. Vi ricorderete, soprattutto quelli della mia generazione, il suicidio di Tenco nell'edizione del 1967, un evento che l'autore collega alle successive emozioni provocate negli anni 1998-99 dalla scomparsa prima di Lucio Battisti e poi di Fabrizio De André. Secondo l'autore fu proprio il primo evento, cioè la morte di Tenco, a dare il là alla consacrazione dell'identità culturale e professionale della figura del cantautore. E quindi di canzone d'autore qui si parla, un movimento che si è sviluppato anche attorno alle attività del club Tenco fino alla sua vera e propria canonizzazione, usa proprio questa parola l'autore, segnata anche da un interessante rapporto tra musica e poesia, tra note e versi, di cui sono fra i più significativi esponenti autori come Franco Battiato o come Lucio Dalla. Addirittura il cantautore finirà col salire in cattedra negli ultimi anni, perché le università stanno riconoscendo sempre più frequentemente il valore unico e straordinario, dice l'autore, della canzone d'autore, che Roberto Vecchioni così riassume: pur partendo da due sistemi semantici preesistenti, il linguaggio poetico e quello musicale, la canzone d'autore costituisce un'unità narrativa e metrica inscindibile. Non è infatti possibile separare musica e testo, così come non si può prescindere dall'interpretazione, che diventa terzo elemento semantico essenziale. Essa, la canzone d'autore, può dunque essere considerata una forma d'arte. Un altro mito scomparso 50 anni fa, torniamo qui agli ascoltatori adulti, è Fausto Coppi, il grandissimo campione di ciclismo, i cui ultimi anni sono stati ricostruiti nel libro Fausto Coppi, Solitudini di un campione, scritto da un inviato del giorno, Gabriele Moroni. Il libro è pubblicato da Mursia, 142 pagine, 14 euro. La solitudine di Coppi fu soprattutto determinata dalla scandalosa, per l'epoca, relazione con Giulia Occhini, per la quale il grande campione lasciò moglie e figlia. Nell'Italia moralista di allora si trattò di un autentico scandalo, soprattutto perché proveniente da un personaggio che era un mito e un modello, un esempio per tanti giovani. E per questa ragione quindi furono fatti degli sforzi anche ad altissimi livelli, dal Vaticano, da molti politici importanti, per riportare sulla retta via Coppi e per ricostituire il matrimonio che lui stesso aveva sfasciato. Ma naturalmente, come ricorderete, questi tentativi non andarono a buon fine e addirittura Coppi nel 1955 dovette subire un processo al termine del quale sarà condannato lui e lei a una pena detentiva, per la verità più alta per la signora, proprio perché per i due sufficientemente benestanti, secondo il tribunale, non sarebbe stato sufficiente una semplice pena pecuniaria. Quella sentenza poi sarebbe stata confermata in corte d'appello e in Cassazione. Naturalmente questo fu uno shock per il campione che continuava a correre, avrebbe continuato a correre senza più molta fortuna, come annotò un grandissimo giornalista, Orio Vergani, che viene citato da Moroni nel suo libro. Sentite questo brano. Lo sport non conosce la legge della fedeltà agli idoli decaduti, della simpatia accurata per gli uomini stanchi che vanno verso il tramonto. Lo sport ama le verità semplici e rigorose. Non tollera le illusioni. Fausto Coppi ha accettato, non si sa perché, di presentarsi a questo giro per distruggere giorno dopo giorno il suo antico trono e la sua corona. Ieri, memore dei vecchi tempi, ho voluto seguirlo sulle rampe del Monte Titano, nella cronoscalata di San Marino. Fausto andava su non peggio di molti altri e il suo calvario non era più penoso di quello di tanti giovanotti della carovana pedalante. Andava su fra grida beffardamente crudeli. «Mandatelo a casa!» «Vendetegli la bicicletta!» Chi suggeriva quelle grida era l'antico spirito del Colosseo, dove non si perdonava i gladiatori arrugginiti. Amare sentenze della folla, delle roche voci giustiziere. E poi naturalmente il malinconico epilogo della vita di Coppi ebbe la sua tragica conclusione nella malattia contratta in Africa per una battuta di caccia che lo fece morire giovanissimo. E con questo ringrazio Vittorio Mussini in redazione e Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it. Vi ricordo che le nostre trasmissioni possono essere riascoltate sul sito www.radio24.it. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.